ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Javier Cercas è uno degli scrittori spagnoli contemporanei più importanti. La sua caratteristica è quella di mescolare la fiction con fatti storici, quindi realmente accaduti. Cito solo alcuni titoli: Soldati di Salamina, Anatomia di un istante, L'impostore, Il sovrano delle ombre. Ora è in libreria con Terra Alta, pubblicato in Italia da Guanda, con la traduzione di Bruno Arpaia. Questa volta Cercas ha voluto esplorare la strada del giallo, ma alla sua maniera, perché non c'è solo naturalmente la trama gialla, quindi un mistero da scoprire, un'investigazione da portare avanti, ma ci sono soprattutto le contraddizioni del protagonista, che poi sono quelle che caratterizzano appunto la letteratura e la narrativa di Javier Cercas. Il protagonista è un trentenne, Melchor, che fa il poliziotto e deve indagare su un omicidio veramente efferato. Un imprenditore anziano e sua moglie sono stati barbaramente prima torturati e poi uccisi. Insieme a loro è stata uccisa anche una delle domestiche. Tra l'altro anche Melchor ha un passato piuttosto torbido, perché era stato in carcere per spaccio di droga. Ecco, tutto questo si svolge nella Terra Alta, che è una regione della Spagna che dà appunto il titolo al romanzo, e non è un caso, perché non si tratta semplicemente di uno sfondo in cui avvengono determinate vicende, ma si tratta proprio di uno dei protagonisti di questo romanzo, perché questa terra così aspra, così dura, riecheggia in un certo modo il modo di sentire, le riflessioni, le contraddizioni stesse del protagonista Melchor. Javier Cercas, partiamo allora proprio dalla Terra Alta. Perché hai voluto ambientare questo romanzo in questa terra così aspra, dura e povera? Io ho scoperto questa zona della Catalogna recentemente e mi ha veramente affascinato. Infatti l'ho scoperto con il libro precedente, che si chiamava Il sovrano delle ombre. È un territorio fantastico, povero, silenzioso, un po' l'atmosfera di questo territorio è un po' l'atmosfera di western, esattamente il contrario della città di Barcellona, di dove viene il protagonista, che è Melchor Marín, questo giovane poliziotto di cui tu parlavi, che è una Barcellona, la Barcellona di Melchor è una Barcellona notturna, violenta, oscura. E allora mi piaceva moltissimo l'idea di questo uomo che arriva, giovane poliziotto, che arriva a questo posto di una forma assolutamente inaspettata, trova un posto nel mondo, trova, direbbe, una patria, nel senso non moderno, tossico, politico, ma nel senso antico, diciamo nel senso di Cervantes, la patria come luogo piccolo dove hai la tua vita, dove hai la tua famiglia, dove ti senti bene, dove puoi essere liberi, perché Melchor ha trovato lì una donna che ama, una figlia, no? Una sorta di felicità effimera, come sempre la felicità. Allora questo contrasto tra questo territorio meraviglioso, che affascinante, e la città di Barcellona, credo che il centro del libro, no? Il passato di Melchor è piuttosto turbolento, perché prima di diventare poliziotto lui era stato in carcere, aveva spacciato droga. E come concilia lui queste due anime, quella di ex criminale e quella di uomo invece che vuole far rispettare la legge? Ah, quello è molto difficile. Melchor è un uomo pieno di contraddizioni, cioè è un uomo nato nella parte più povera di Barcellona, la sua mamma è una puttana, non conosce il suo padre, la sua vita è stata durissima, è un uomo pieno di furia, pieno di volontà di giustizia, che porta veramente all'estremo, e allo stesso tempo un uomo puro. È vero che è strano che un criminale dopo sia un poliziotto, no? Ma questo è possibile. E questo è Melchor, è in certo senso una mescolanza fra i due protagonisti del libro che cambia la sua vita, che è I Miserabili. E infatti lui inizia a leggere I Miserabili quando si trova in carcere, perché un altro detenuto appassionato appunto di letteratura, fra i vari libri che gli consiglia, gli dà appunto I Miserabili. A questo proposito tu scrivi, questo è l'altro detenuto che dice: in realtà non esistono due romanzi uguali, né due persone che abbiano letto lo stesso romanzo, nemmeno I Miserabili è uguale a I Miserabili, rileggilo e vedrai. Ecco, Melchior prende questo invito alla lettera, perché appunto I Miserabili diventerà il libro fondamentale della sua vita. Lui lo legge, lo rilegge, si identifica con tutti i personaggi dello stesso romanzo. Ma questa è anche un po' la tua idea di letteratura, cioè che un romanzo non è mai un solo romanzo. Questo personaggio di cui tu hai parlato, che è il bibliotecario della carcere di Quatre Camins vicino a Barcellona, lui dice: la metà di un romanzo la scrive l'autore, l'altra metà la scrive il lettore. E questo per me è una verità assoluta, cioè un libro è una partitura, un romanzo è una partitura, è il lettore che interpreta questa partitura e ogni lettore interpreta questa partitura di una forma diversa. Questa è la magia della letteratura. E Melchior è per me il lettore ideale, perché lui non è un intellettuale, lui non legge perché è una cosa importante, lui legge per passione, lui un giorno scopre, grazie a questo uomo, scopre I Miserabili, e questo libro trasforma assolutamente la sua vita. Lui diventa un lettore potentissimo, lui scopre la sua vocazione di poliziotto, di uomo che vuol fare giustizia. E c'è questo verso di Orazio che dice: de te fabula narratur, la storia parla di te. E questo è esattamente quello che fanno i grandi libri, e questo è esattamente quello che fa I Miserabili per Melchior. Lui sente che I Miserabili parla di lui. È vero, i libri, i grandi libri possono fare queste cose con noi, possono cambiare la nostra vita. E perciò dico che Melchior è forse per me una sorta di lettore. Il lettore ideale. Ecco, Melchior decide poi di diventare poliziotto in seguito alla lettura dei Miserabili, ma anche perché sua madre, appunto, che faceva la prostituta, viene uccisa. Quindi Melchior c'è sempre un forte senso di giustizia, ma anche un desiderio di vendetta, che poi ritornerà anche alla fine mentre farà le indagini su questo efferato omicidio. Come si conciliano giustizia e desiderio di vendetta? Questa è una domanda essenziale del libro. Io credo che la letteratura può e forse deve essere appassionante, divertente, anche l'umore è essenziale. Io non posso pensare al romanzo senza umore, ma allo stesso tempo può essere molto seria, può mettere in discussione le cose più serie, i temi più seri. E il tema di questo libro effettivamente è la giustizia, cioè il valore della legge, la possibilità della giustizia, la legittimità della vendetta. Per me scrivere un romanzo consiste a formulare una domanda complessa e non risponderla, almeno non risponderla di una forma chiara, univoca, tassativa, perché le risposte del romanzo sono sempre ambigue, contraddittorie. Ma la stessa, la domanda centrale forse di questo libro si potrebbe formulare così, tu l'hai detto molto bene: è legittima la vendetta quando la giustizia non ci fa giustizia? E questa forse la domanda essenziale. E ovviamente qualsiasi persona civilizzata risponderebbe che no, che la vendetta non è legittima, no? Che dobbiamo accettare la giustizia formale, no? che la vendetta non è legittima. Ma quello che fa, secondo me, quello che possono fare, forse quello che devono fare i romanzi, è mettere in discussione le nostre certezze, le nostre più forti certezze, le nostre più solide certezze. E mostrare che la realtà umana è infinitamente complessa e che anche una vendetta almeno possiamo capirla, che possiamo capire qualcuno che in una certa circostanza fa una cosa che ci sembra orribile. Io credo che questo è molto importante, che questa possibilità di capire l'umano, l'infinita complessità umana, anche il mostruoso, anche il cattivo, anche il terribile, questo fa l'utilità della letteratura. Io quando ero giovane non credevo all'utilità della letteratura, credevo che era un gioco intellettuale, sofisticato, tutto questo. Oggi sono sicuro che la letteratura è molto utile, ma sempre che non vuol essere utile. Se vuol essere utile, diventa propaganda o pedagogia e non è utile. Ecco, il concetto di vendetta, ma anche e soprattutto il confine molto sottile fra bene e male, qualcosa che torna spesso nei tuoi romanzi, così come per esempio abbiamo detto Fatti storici. Ora non diciamo il dettaglio perché altrimenti sveliamo troppo, però anche in questo romanzo a un certo punto si farà riferimento alla guerra civile spagnola, che è stata seguita, lo ricordiamo, dalla dittatura del franchismo che la Spagna ha avuto fino al 1975, non ce lo dimentichiamo. Ecco, anche lì vendette incrociate di tutti i tipi. Quella ferita è ancora aperta per la Spagna, visto che torna spesso nei tuoi romanzi? Sì e no. La risposta è sì e no. La risposta è sì perché oggi viviamo in una democrazia. In Spagna, una democrazia fragile, povera, come tutte, imperfetta, come tutte le democrazie. La democrazia perfetta non esiste, tutta democrazia vera è imperfetta e la Spagna è una democrazia. E in questo senso, tu l'hai detto molto bene, la guerra civile spagnola, i libri dicono che dura 3 anni, ma non è vero, dura 43 anni, perché la dittatura franchista è stata la perlungazione. È stata la conseguenza di quella guerra civile, insomma. Una estensione, infatti, della guerra civile. La dittatura non era la pace, era certo. L'estensione della dittatura, certo. Della guerra per altri mezzi, no? Ma in questo senso, allora, in questo è un paese democratico, e allora diciamo che in questo senso il franchismo è finito, la guerra è finita e tutto questo. Ma c'è un altro senso in cui non è finito. Perché non è finito? E perciò i miei libri parlano tutto il tempo. Alla fine c'è sempre la guerra civile. Perché? Perché il passato non passa mai. Ecco, non è un caso che non abbiamo parlato troppo della trama gialla perché non vogliamo togliere il gusto al lettore. Quello che però sicuramente possiamo dire è che l'uomo, l'imprenditore che viene barbaramente prima torturato e poi ucciso insieme alla moglie, è un imprenditore molto in vista della Terra Alta. È un uomo ormai anziano, è un uomo che dà lavoro a tantissime persone, ma nello stesso tempo è anche un po' un despota. Insomma, anche qui non è una figura esattamente limpida ed è forse anche per questo che Melchior vuole andare a fondo nella questione. Gli esseri umani non siamo mai chiari, limpidi. Cioè la verità degli esseri umani sempre è complessa, sempre ambigua, sempre piena di zone di ombra. Il caso di questo personaggio è così, ma il caso di Melchior è così. Cioè a me interessa particolarmente questa ambiguità degli esseri umani, questa complessità degli esseri umani. Io credo che il romanzo come genere è perfetto per l'investigazione di questa, della complessità dell'umano. Grazie a Javier Cercas, ora in libreria con Terra Alta, pubblicato da Guanda e tradotto da Bruno Arpaia. Grazie a Javier Cercas. Grazie a lei. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Una come te, se chiude gli occhi vede il mare, senza andar lontano. Una come te, ha una valigia per le scarpe, sembra un aeroplano. L'invenzione di noi due è il nuovo romanzo di Matteo Bussola pubblicato da Einaudi. Bussola era diventato noto al pubblico dei lettori nel 2016 con Notti in bianco, baci a colazione. Forse qualcuno di voi lo ricorderà perché era stato veramente un grande successo. In genere, in tutti i suoi libri, Bussola indaga il rapporto di coppia o i legami familiari e lo fa anche in questo L'invenzione di noi due. Si tratta di una storia d'amore nata sui banchi di scuola, in modo diciamo quasi inconsapevole, perché Nadia e Milo, che sono i protagonisti di questo romanzo, si scambiano dei messaggi scrivendoli proprio fisicamente sul banco che uno occupa al mattino e l'altro al pomeriggio. Loro in pratica non si sono mai visti e si incontreranno solo dopo alcuni anni dalla fine del liceo. Dopo questo incontro, lo diciamo, ne nasce una grande storia d'amore, un matrimonio che Però, insomma, anche questo matrimonio sembra non reggere al peso del tempo. E così, in questo momento di crisi, Milo decide di riconquistare sua moglie sempre attraverso le parole, quindi attraverso delle lettere, delle mail. Questa è sostanzialmente la trama di L'invenzione di noi due. Matteo Bussola, allora, com'è nata l'idea di questo romanzo che ci propone una storia d'amore nata in un modo decisamente originale, che poi dà spunto per una serie di riflessioni che ogni lettore può fare sulle storie d'amore e le relazioni? Insomma, com'è nata l'idea? Ma allora, l'idea è nata molti anni fa, in verità. È nata addirittura subito dopo Notti in Bianco, Baci a colazione, che tu ricordavi, quando da parte di Einaudi, come dire, è arrivata da subito la proposta di scrivere un nuovo libro, solo che chiaramente non si sapeva bene di cosa avrebbe dovuto trattare, no? Dato che Notti in Bianco, Baci a colazione è un libro fortemente autobiografico in cui io raccontavo della mia paternità. E io ho inviato a Einaudi un file di racconti, e all'interno di questi racconti c'era il racconto che ha poi dato origine all'invenzione di noi due. Sia la mia editor Rosella Postorino che la buonanima di Severino Cesari al tempo mi dissero: guarda, è questo qui, secondo noi la storia che tu stai cercando è contenuta in questo racconto qui. Il racconto si intitolava Chi sei? Ed è per l'appunto quel racconto che parla di quella storia, di quei due ragazzi che scrivevano sul banco, storia che tra l'altro ha un innesco autobiografico anche questa, perché quell'episodio di questa corrispondenza epistolare sul banco di scuola con una ragazza in queste aule in cui ci tornavamo è accaduta davvero nella mia vita di liceale. Ecco, poi nella realtà, nella mia vita di liceale non è accaduto niente, non c'è stato un proseguo di questa storia. Nel libro L'invenzione di noi due ho voluto proseguire con l'immaginazione la storia di queste due persone, solo che ho dovuto aspettare addirittura 3 anni, tant'è che nel frattempo ci sono stati di mezzo altri 2 libri. Alla fine, quando l'immagine mi si è chiarita del tutto, ho cominciato a scrivere e la storia è arrivata così. Ecco, devo dire che è molto tenera la storia di Nadia e di Milo, perché questo modo di scrivere sul banco, di non conoscersi neanche, di non sentire neanche l'esigenza o il coraggio da nessuna delle due parti di dire ok, adesso ci incontriamo, vediamoci, o forse chissà un messaggio era stato cancellato, questo non lo sapremo mai noi lettori. Ecco, dicevamo che però Nadia e Milo si incontrano in modo assolutamente fortuito molti anni dopo, parecchi anni dopo la fine del liceo. Ecco, quando si incontrano entrano subito in empatia, è come se si fiutassero, si annusassero, si riconoscessero, anche se tu scrivi nel romanzo: ci furono all'inizio il prendersi le misure, cauti, la curiosità di capire quanto di quei ragazzi che si erano scritti fosse rimasto dopo così tanto tempo. Ecco, che cosa era rimasto di quei ragazzi dopo così tanto tempo? Perché loro, come dicevamo, si riconoscono in qualche modo. Ma sì, più che si conoscono, nel senso che non si erano mai visti prima, quindi no, si ritrovano. No, in senso di ecco, riconoscersi proprio, come dire, umanamente, non fisicamente. Sì, sì, sì. Certo, ma infatti si riconoscono nel senso che vivono questo loro incontro, che di fatto è un primo incontro, diviso quasi come se fosse l'incontro fra due predestinati, guidato dalla mano invisibile del destino, no? E quindi hanno la necessità di far corrispondere per la prima volta la dimensione somatica, fisica, reale, concreta, a quella delle parole che si sono scambiati per anni e attraverso le quali si sono immaginati. Quella cosa che tu dicevi, no? Di vedere che cos'era rimasto di quel ragazzo o di quella ragazza è un po' il tema del libro. Il cuore del libro è proprio questa indagine sulle relazioni, soprattutto sulle relazioni di lungo corso, all'interno delle quali spesso tendiamo a smarrire la storia di una persona, la storia della persona che abbiamo scelto. Tendiamo a non vedere più gli occhi di quel ragazzo o di quella ragazza che avevamo incontrato molti anni prima. Tendiamo a non ritrovarli più, a non riconoscerli più negli occhi della persona che abbiamo davanti oggi. E invece, secondo me, l'amore è proprio questa immagine olistica che dovrebbe tenere insieme tutto, no? È questa forma di privilegio in base alla quale, se tu guardi negli occhi del tuo innamorato o di tuo marito, di tua moglie oggi, hai il privilegio di poter vedere ancora quella ragazza o quel ragazzo che avevi conosciuto molti anni prima, cioè sapere e sentire che è ancora lì, ricordarti il percorso che avete fatto insieme e quindi dare un senso al vostro essere ancora qui. Insomma, per Nadia e Milo succede un pochino la stessa cosa. Tutta l'estenuante percorso di resistenza di Milo all'interno di questa relazione, che si apre, il libro si apre con una crisi coniugale sostanzialmente, un momento in cui Nadia non ama più Milo mentre Milo l'ama ancora perdutamente, è proprio, come dire, un ritornare a vedersi. Milo è diventato opaco allo sguardo di Nadia e vuole provare a tornare in superficie. Ecco, dicevamo che questo tuo romanzo è anche un'indagine sui rapporti, sulle relazioni d'amore di lungo corso. È anche vero che nelle relazioni lunghe ci si può rendere conto all'improvviso che le due persone hanno avuto una visione diversa della stessa cosa. Diciamo che a un certo punto i nodi vengono al pettine. Si scopre quasi paradossalmente che Nadia è un po' infastidita, per esempio, dal fatto che Milo ha rinunciato alle sue ambizioni, avrebbe dovuto fare l'architetto, invece ha fatto il cuoco. Ecco, secondo te la felicità di coppia, dunque, passa proprio anche attraverso la realizzazione di se stessi come individui singoli? Beh, sicuramente passa attraverso la realizzazione di se stessi, perché l'unico contributo che possiamo portare all'interno della nostra coppia siamo proprio noi stessi, e quindi un noi stessi pienamente dispiegato, pienamente risolto è più utile, è più fecondo all'interno della vita di coppia. In un certo senso quello che Nadia rimprovera a Milo è proprio questo, cioè Milo è una persona mite rispetto a Nadia, molto più semplice anche dal punto di vista professionale. Per esempio, lo fa il cuoco, non fa lo chef. Lo ha fatto per ripiego, nel senso che per Milo il lavoro è una cosa che gli serve per amare Nadia. Milo ha scelto di fare il cuoco perché quel lavoro, quella professione, è una professione che gli ha permesso di restare accanto a sua moglie, perché per lui il faro della sua vita è proprio trovare la maniera di amare Nadia nel modo migliore. Ma in questa sua ossessione cerca disperatamente di non ferire Nadia, ha l'ossessione di volerla proteggere a tutti i costi, e in questo desiderio di protezione lui in realtà non entra mai davvero in gioco nella relazione, perché non porta all'interno della relazione i suoi bisogni, le sue necessità, forse addirittura non porta i suoi desideri. E nel prosieguo di questa corrispondenza epistolare, che tra l'altro avviene in una maniera molto particolare, perché Milo scrive a sua moglie ma firmandosi con un altro nome, proprio perché ha bisogno di farsi nuovamente estraneo ai suoi occhi per poter essere nuovamente visto da sua moglie, quasi come se fosse Cirano e Cristiano allo stesso tempo. Ecco, all'interno di questa corrispondenza vediamo, attraverso le lettere, raccontato il punto di vista di Nadia, che è il punto di vista di una donna che invece è stata paradossalmente delusa dal fatto che Milo abbia vissuto una vita al servizio di lei, e in questo modo non manifestando mai pienamente forse il suo sé. A proposito del fatto che Milo, diciamo, occupa meno spazio, diciamo così, in questo rapporto, sembra essere più arrendevole, tu scrivi: Nadia arrivò in fretta a occupare sempre più spazio nella mia vita, fino a conquistarlo quasi tutto. C'era qualcosa di bellico nel suo modo di amare, c'era una felice e consapevole arrendevolezza nel mio. Ecco, i rapporti di coppia, tutti naturalmente, sono basati su un proprio equilibrio. E questo equilibrio che è venuto a mancare fra Milo e Nadia? Guarda, ti dico la verità, il romanzo in realtà non lo chiarisce. Ed è un non chiarimento voluto, nel senso che il libro si apre con questa fase critica conclamata. Noi non ne conosciamo le ragioni, in realtà può essere semplicemente che il loro amore, alla prova della realtà, alla prova dell'estenuante quotidianità di tutti i giorni, si sia sfilacciato, si sia sfibrato, che si siano semplicemente allontanati, come poi accade molte coppie, no? Dopo tanti anni magari si rischia di stare insieme quasi solo per inerzia, o a volte addirittura forse per paura che quello che ci attende là fuori possa essere più terribile di stare con una persona non amandola più. Il punto però è che forse Milo non si pone questa domanda, ma cerca disperatamente semplicemente il rimedio. Lui vuole portare nuovamente sua moglie a sé, di più ancora, in realtà non vuole necessariamente ricondurla verso se stesso, ma lui pensa e crede che sua moglie si meriti ancora un amore. Lui vuole ritrovare nuovamente nei suoi occhi gli occhi di quella ragazza innamorata che aveva conosciuto molti anni prima. È disposto a tutto per questo, anche a farsi nuovamente estraneo per poter essere di nuovo riscoperto. Diciamo che l'interrogativo poi che alla fine questo romanzo pone è semplicemente questo: quali strumenti possiamo utilizzare all'interno di una relazione di coppia per continuare a vederci, per continuare a comunicare? Quali strategie possiamo utilizzare? La scrittura può essere una di queste, nel momento in cui è vero che è una dimensione comunicativa che manca della dimensione somatica, gestuale, dell'intonazione della voce, ma forse proprio per questo può essere una comunicazione più affilata, più precisa, più chirurgica, può essere una più maschera. Più vera, forse anche più vera. Anche più vera, è paradossalmente più vera, ma è come se fosse una maschera attraverso la quale noi possiamo dire la verità. Grazie a Matteo Bussola, ora in libreria con L'invenzione di noi due, pubblicato da Einaudi. Grazie Matteo. Grazie Alessandra. E anche per oggi è tutto. Grazie al settore tecnico che ha supportato il montaggio di questa puntata del Cacciatore di Libri. Vi ricordo che se volete potete seguirci sui social, in particolar modo su Facebook, la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24, ma anche su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.